Certo, facile tornare qui da te. Avrei voluto scappare lontano, ma molto lontano, e non chiederti se, se l'ultima volta che hai rubato il giorno al mondo era per me, o forse non ero a corrente che il tempo a quel tempo correva anche per lui. Non ti accorgevi di me se poi mi lasciavo cadere, non mi accorgevo di te che mai mi venivi a salvare. Accorgevi di me se poi ti venivo a cercare, non mi accorgevo di te che mai eri pronta ad amare. Non ti curavi di me perché già sapevi che io, se mi curavo di te, a farmi male eri ancora tu. Ecco, son pronto a sapere parlare, proprio adesso che voglio soltanto morire. Su quelle tue labbra c'è ancora posto per me, e come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te nelle tue mani insistenti. Avrò cura di te ora che io so sentirti, avrai cura di me perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti, ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti. Su CRM Epiradio Toc Toc, un programma di Rosy e Jerry. Let's go. Oh, when the day is gone, oh, when the night's long, life goes on, life goes on. We gotta live it up till it's gone. Live it up. Cause we won't be around too long. Nah. Life goes on. Life goes on. Yeah. Lately it seems the good dreams are few and far between. Nightmares are putting fires out with gasoline. And I'm just trying to stay righteous. Sometimes I see my own face in Christ's likeness. Yeah. And apart from my life's vices, 15 years young, had my first midlife crisis. Wow. But it's tough to stay upright and pious when people you hold highest be the ones the most biased. My daddy told me misery loves company. If that's the case, they must hate, they ain't getting none from me. I don't sweat it, it's embedded in my DNA. I got a good heart and bad brains, PMA. Oh, when the day is gone, yeah. Oh, when the night's long, uh-huh. Life goes on, life goes on, life goes on. They say that life goes on. Let's go. Gotta live it up till it's gone. Live it up. Cause we won't be around too long. Now. Life goes on. And playing could have been, and staring at an empty bed my ex-girl should have been in. Thinking what I would have done different. Not a damn thing, cause finally I'm done with it. besides, I got a girl that adores me, and I never take for granted all the things she does for me. Never. I shoot the moon down and put it on a wedding band, and sing these arms of mine to her. She's the oldest Redding fan, and she'll never forget a man, 'cause she knows she'll never find a better man. Let's go ahead with these wedding plans. Come on and sing the song, life goes on. When the day's gone, day's gone. When the night's long, night's long. Life goes on, life goes on. Buon lunedì, siamo in diretta su CRMP Radio all'interno di Tok Tok, naturalmente in compagnia di Jerry. Rosy, Jerry, prendi fiato però, Sì, sì. Non vorrei ti venisse un infarto, proprio no, inizio puntata. Oh, mamma mia. Uccello del malaugurio. Come va allora, Rosy, tutto bene? Tutto benissimo, lunedì cominciato alla grande, direi. Bene, sì. Bene. E spero che questo possa essere anche per tutti i nostri CRMini che ci stanno ascoltando, perché devono essere sempre più numerosi. Sicuramente. Sempre di più. Sempre di più, vi aspettiamo. Intanto vi ricordiamo i numeri di telefono. Sì, come sempre all'inizio noi ricordiamo i nostri numeri telefonici, per cui siamo al numero fisso, lo 0921 92 32 92. Potete mandarci un messaggio al 335 56 37 251. E naturalmente potete anche ascoltarci tramite internet e vederci su streaming al www.crmpradio.it. E ancora potete seguirci naturalmente su Facebook, dove potete fare le vostre richieste, chattare con noi, farle direttamente, così, ecco, via chat, si può. Tutto via chat, ormai tutto via chat. Con la nuova tecnologia tutto possiamo fare, si tutto fa. Vogliamo fare. Esattamente. Allora, che siamo belle pimpanti, sì. Sto pomeriggio. Sai cos'è, perché diciamo sempre stamane? Perché noi stasera, quindi sto pomeriggio. Sto pomeriggio, abituate poi a farlo il programma di mattina, no? Ogni tanto esce fuori sto sì, buongiorno. Buonasera, arrivederci, grazie. Oppure direttamente siamo in diretta su Deja Vu, esatto. Ai tempi, salutiamo Mary. Ciao Mary. Quando lei ci ha fatto da maestra col suo programma Deja Vu, che va in onda ogni martedì e giovedì dalle 10 alle 12. Esattamente, esatto, sì. Abbiamo fatto pure un po' di pubblicità a Mary. Ciao Mary. Ciao. Per adesso cominciamo con la buona musica, sì, giusto? Sì, pronte per cominciare, abbiamo scelto il nuovo singolo di Gianna Nannini e andiamo subito a sentirlo, Mai per amore. Vieni di puro amore a ridarmi la vita, altissimo amore, è una storia. Quasi mai, ho goduto tra le braccia dell'inferno che mi dai. Quasi mai, il tuo silenzio uccide un cuore andato in cenere. Quasi mai, mi hai guardato più forte negli occhi e mi hai detto chi sei. sai che quasi mai il vero amore lascia i lividi. Mai per amore mi lascerò per te morire. Mai per amore, guardami, cerco la luce di noi nelle lacrime. Quasi mai, io ti cerco nelle notti e chiedo ai sogni dove sei. Quasi mai, in questa storia andata male io ti ho detto addio. Come mai? Come mai? La vendetta che stringi nei pugni è la tua malattia. Lo sai che quasi mai il vero amore può dividerci. Con Mai per amore, bella, dovevamo ascoltarla proprio fino all'ultimo perché certo. Merita questa canzone. Questo è il nuovo singolo, bello, bella, bella, bella. Sempre bella musica. Giovanna Nini è bravissima. Brava. Con l'ultimo album che ha fatto in onore di sua figlia Penelope. Sì. Da rabbrividire, dai. Bello. Perché è toccante. Ci piace. Ha significato, quindi brava Giovanna, un applauso. Sì, va bene. Allora, senti, che ne dici di... io sì. Praticamente volevo dirti sì. che... Sì. Sono antipatica, sto parlando in maniera antipatica, Jerry. Sì. Serietà. Sì. E, molte persone con cui mi sono ritrovato ultimamente a mm-hmm. parlare... sono seria, Jenny. Sì, ti sto ascoltando anch'io, sì. Seriamente. Dai, dimmi. Persone che ascoltano il nostro programma, non ti dico se ci fanno i complimenti o no, però mi hanno detto che è piaciuta l'idea, la nostra idea. A molte persone è piaciuta la nostra idea di dare l'oroscopo. Bene, fa piacere. Morale della favola? Sì. E dimmi, cominciamo, va? Cominciamo con il nostro oroscopo? Sì, dai, c'è comincia. Tutto sto discorso, perché? No, perché è piaciuta questa meno idea, male. Capito? La scorsa settimana abbiamo avuto successo. Noi siamo contenti. Solo quattro persone me l'hanno detto che è piaciuta, però abbiamo riscontrato successo. Ma sono sicura che ci seguiranno in tanti. Sì, dai, si scherza, dai. Bando alle dai. Ciance. Serietà, cominciamo col cominciamo segno con l'Ariete. Dell'Ariete. Ariete. Uno dopo l'altro i pianeti stanno uscendo dal segno della bilancia. Un sospiro di sollievo? Non vi è ancora concesso, perché nel pomeriggio la luna entrerà nel segno a voi opposto, portando ancora qualche turbolenza nella vostra relazione sentimentale. Aia! Toro. Anche il sole è entrato nel segno dello scorpione, raggiungendo Mercurio e Venere. La settimana comincerà quindi leggermente in salita. Non scoraggiatevi, ma cercate piuttosto di vedere il bicchiere mezzo pieno anziché mezzo vuoto. Tutto vi apparirà subito più leggero. Bene, leggerezza. Sì, leggiadria. Leggeresse. E continuiamo invece. E andiamo avanti, andiamo a sentire il prossimo brano in programma per oggi. Vi ricordo che siete sempre in diretta su CRMP Radio con Jerry e Rosy all'interno di Tok Tok. E andiamo ad ascoltare Lenny Kravitz con Stand. Don't give up, you're gonna see tomorrow that you'll be on your feet again. Sometimes the world's gonna knock you over, Lenny Kravitz con Stand. Bella questa, mi piace, mi gusta mucho. Vabbè, sì, help. Che c'è? Please, Ciremini, help me. Perché, guarda, che succede? Cosa hai oggi? Che è? Niente. Che? Non si può dire niente? Che dobbiamo fare? Non ho capito. Gemelli. Andiamo avanti con l'oroscopo, dai che è meglio. Gemelli. La parte iniziale di questa giornata sarà un po' faticosa a causa della permanenza della luna in Vergine. Tuttavia, con il passare delle ore, la situazione migliorerà e riuscirete a portare avanti i vostri compiti quotidiani con serenità e con il sorriso sulle labbra. Mi raccomando, quello sempre, si affronta sempre così la vita, eh? Ridendo, già. Cancro. Eventuali alti e bassi di umore e rovesci di fortuna saranno oggi per voi semplici da gestire, grazie alla presenza della luna in aspetto armonico nel segno della Vergine. Vi riuscirà a prendere tutto con filosofia e con un sorriso sempre acceso sulle labbra. Vedi, anche qui, anche... Ma infatti, mi sembrava di rileggere la stessa cosa. Ah. Guarda un po' te. Ma va. Vanno di comune accordo, gemelli e cancro, vedi, sì, un po' te. Interessante. Che segno sei tu? No, non c'è. No, io sono acquario. Io sono leone, non possiamo, mi dispiace. Andiamo a sentire il prossimo brano, che devo dire a me piace molto, Michele. Guarda, te lo dedico, perché te lo dedico, credimi. Sì. Sì. Radio amici ascoltatori, allegria. Sì. Ciremini, io dedico questa canzone a Geraldina, mia collega, mia compagna d'avventura a Toc Toc, Michele Zarrillo. La prima cosa che farò. La prima cosa che farò appena te ne andrai di qui sarà strappare tutto. Auguri, foto, vecchie email, i tuoi messaggi dal display, svuotare il tuo cassetto. Via i ricordi, tu sparirai. È già tardi, perché non te ne vai? La prima cosa che farò appena te ne vai con lui, trasformerò la casa. Non voglio immaginarti più mentre ti spoglio, guardi un film o metti via la spesa. Tra i ricordi ci morirei. Come posso dimenticare noi? Se la prima notte tenera, se il silenzio di una lacrima, se il tuo sguardo che mi illuminò, non lo dimentico. Quella pioggia tra i papaveri, cosa che farò appena chiudi e te ne vai, ritroverò gli amici. Tra i disillusi tornerò, che sull'amore ha messo già le loro belle croci. Tra i ricordi io morirei, ma non posso. Non lo dimentico ormai. so che tu non lo dimenticherai. RM Radio Toc Toc, un programma di Rosy e Jerry. Was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire, the best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. Mind, oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. Today, oh, I'll show ya, I'll blow ya. Rhythm is magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. This I'll show ya, I'll blow ya. Mind, oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. It's the day, oh, crazy vibes. I'll show ya, I'll blow ya. Mind, oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. Today, oh, I'll show ya. You crazy vibes, spero di aver detto bene, ma penso di sì. Non vale, perché ti avevo detto una battuta, detto eventualmente se sbagli sbagli tu, ma la fiora tu la fai perché la leggi tu, non vale che ti, come si suol dire, ti pari il mi sederino paro. No, ma era, si dice così proprio. Sì sì, fonti sicure mi hanno detto che si dice così. Chi? Mr. Jones? Me stessa. O Mr. Bean? Me stessa. Signor Fagiolo. Andiamo avanti con l'oroscopo, sì, per favore. Andiamo avanti perché sono curiosa, perché c'ho il segno del leone. Sì, che è poi il tuo segno. Esattamente. Oggi non reagirete molto bene di fronte alle pretese degli altri nei vostri confronti. Hai visto? A darvi più fastidio saranno le richieste esageratamente esigenti dei vostri superiori. Data la presenza di Venere e Scorpione, è però possibile che a infastidirvi siano anche le domande del partner. Capito, amore mio, non mi fare tante domande. Peccato che giusto in questo momento non mi sta ascoltando. Va bene, pazienza. Ma comunque farò sentire la replica, che va in onda dalle 5.30 alle 7 del mattino domani. Di domani. Esatto, andiamo avanti con la Vergine. Fare amicizia oggi vi risulterà un atto spontaneo e naturale, come respirare. Il merito di questa improvvisa vivacità è dovuto alla luna, presente oggi nel vostro segno. Sentirvi sicuri di voi stessi vi permetterà di avvicinarvi agli altri senza timore. Vedi un po' te la Vergine che si va facendo sempre più coraggiosa? Bravi, bravi, bravi. Vedi un po' te. Allora adesso noi dobbiamo fare una cosa carina. Sì. Visto che abbiamo una nostra radioascoltatrice che è affezionatissima a noi, guarda, ci segue sempre. È la nostra radioascoltatrice di fiducia. Sì, ci seguiva di mattina, al mattino, di pomeriggio, la notte, le repliche, secondo tutto. Secondo me anche di notte, se facessi un programma anche lei si sveglierebbe apposta. E allora, visto che lei fa sempre molte richieste, ora siamo noi, abbiamo scelto una canzone che vogliamo dedicare a lei. Esatto. La nostra amica si chiama Patrizia, che salutiamo, ciao Patrizia. E a lei dedichiamo una bella canzone di Marcella Bella, che a lei so che piace tanto, Io domani. Marcella Bella con Io domani, questa è la canzone che noi dedicavamo alla nostra affezionatissima Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao Patrizia, bellissima canzone. Bella, bella, bella. Un po' indietro nel tempo, chissà quanti anni qualche anno io netto. Forse non ero nata. Beh, forse neanch'io. Ok, non mi linciare con lo sguardo. Esatto, okay. Andiamo avanti con il prossimo segno, il segno della bilancia. L'impazienza è una brutta bestia che quest'oggi potrebbe rendervi suoi schiavi. Evitate di impantanarvi in situazioni che impongano una lunga attesa se non siete in grado di sopportarla. Del resto, con Urano in opposizione in Ariete, è difficile attendere. Quindi attenti, amici della bilancia. Lo Scorpione, invece, rispolverate quel vecchio progetto che tenete da troppo tempo chiuso in un cassetto. Adesso che il sole si trova nel vostro segno, potete provare a proporlo a qualcuno con la speranza che venga notato positivamente e aiutato a venire finalmente alla luce. Vedi, tu ce l'hai i sogni nel cassetto? Sì, chi non ha i sogni nel cassetto? Tutti ce l'abbiamo. Tutti. Però i sogni sono desideri chiusi in fondo al cuore. Che si realizzeranno, sì. No, Cenerentola. Sì. Scusami. Cinderella. Cinderella story. History. E andiamo avanti con la musica. Ah, questa canzone piace mi fa... a te, sì. Quindi questa volta faccio io la dedica a te. Va bene, sì. Ci dedichiamo le canzoni. Oggi è giornata oggi di dedica, anche perché io devo fare poi anche una dedica. Sì? Sì. Allora, intanto io ti dedico questa bella canzone di Maria Gadù, che a te piace tantissimo. Sono commossa. Shimbalaye. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador em mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia manjar. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai repousar. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Pescador em mar e o anzol. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai pousar. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, toda vez que ele vai pousar. Habitando esse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Shimbalaye, quando vejo o sol beijando o mar. Shimbalaye, RM Radio Talk Talk, un programma di Rosy e Jerry. J-R, man, Snoop Dogg, the IS, return of the MAC, return of the Mac, come on, return of the Mac, once again, return of the Mac, I do, cause you know that I'll be back, yeah. Here come the brand new in your ear, this feel like the nominated song of the year, yeah. Feeling dumb I'm good up in here, cause I'm representing for my whole hood up in here. But I'm not about to get ghetto though. Mingling with some women, feeling incredible. And I'm trying to bag a chick from a centerfold. And I'm trying to burn bread like it's finna be toast. Finally up in the game and they feeling me, coach. Cause I'm first class flying, I ain't finna be coached. Yeah, it's a celebration that never end. Tell a friend, girl, a Mac is back, baby. Fans hit the streets, the top down so they can see. Clubs and party hard, oh my God. Cause I just bought out the bar. We can G5 from coast to coast. Yeah. Pop champagne, let's make a toast. While we sipping Cafe Patrol, smoke that kush till we get low. Return of the man. Come on. Return of the man. Once again. Return of the man. I do. Cause you know that I'll be back. Let me hear you say yeah. Let me hear you say where. You say yeah, every day we stay fresh. I got keys to whatever, trees of endeavor. Man, he was buzzing, he's on my lever. He's on the pedal, drive off slow. Seven deuce Cadillac is convertible. She wanna be where the Magnet is at. Dog in the house while I'm cranking it back. They say, we say, you say go. Take it to the top, now drop it down low. Mink on my back, suited and booty. Crimped out, pimped out. What would you do if you was me? Would you hop on a freak while you bop to the beat? Now we can take it. Bands that hit the streets, let the top down so they can see. We can hit the clubs and party hard, oh my God. Cause I just bought up the bar. Oh, we can G5 from coast to coast, yeah. Pop champagne, let's make a toast. Now we sipping Cafe Patrol, smoke that kush till we get low. Return of the man, come on. Return of the man. I got a thick money clip, and he broker than a joke. That isn't the funniest. MA double come equipped with a lavish life. It's a one-time offer, won't ask you twice. When we go shopping, mama, don't ask the price. Got a good accountant to give me cash advice. When it comes to this game, I'm a mastermind. I spit classic line right out the classic line. Ha, and that ass is fine. I think you're one past the nine, and that's a dime. Yeah, it's a celebration that never end. Tell a friend, girl, the Mac is back, baby. Bands that hit the streets, let the top down so they can see. Let them see. We can hit the clubs and party hard, oh my God. Cause I just bought out the bar. Oh, no, we can G5 from coast to coast, yeah. Pop champagne, let's make a toast. Now we sipping Cafe Patrol, smoke that kush till we get low. Return of the Mac, come on. Iaz, Snoop Dogg, The Mac. Il nome è tutto un film. Un programma, una garanzia, ok. No, bella comunque, dai. Bella movimentata. Sì, movimentata. Allora, andiamo avanti con il nostro oroscopo. E siamo arrivati al segno del Sagittario. Non lo direi così antipaticatamente. No. Dai. La luna, ancora presente nel segno della Vergine in posizione disarmonica, vi metterà oggi di fronte ad alcuni ostacoli. Non fatevi prendere dallo scoraggiamento. Basterà fare un bel respiro e affrontarli con la massima tranquillità. Andrà tutto bene, fidatevi allora, andrà tutto bene, cara, tutto bene. Oggi giornata di paperelle, ma va bene uguale, dai, andiamo avanti con il prossimo segno. Segno del Capricorno. Sul lavoro state progressivamente imponendo il vostro ritmo anche ai collaboratori e ai colleghi, che è un bene perché siete estremamente efficienti. La luna in Vergine metterà in luce le vostre qualità davanti a chi è tenuto a giudicarvi e a valutarvi. Ah, bene. Capricorno. Quando ce vo. Esatto, quando ce vo. Andiamo adesso a sentire la prossima canzone. Sì. Di un nostro artista italiano. Sì, è un nostro amico. Sì, io l'ho conosciuto, sì. È venuto qui a Cefalù. Sì. L'ho visto, in Piazza Duomo. Max Gazzè? Sì, era il trio Paola Turci e Marina Rey. Ah, quindi adesso andiamo ad ascoltare allora solo Max Gazzè. Solo lui con Mentre Dormi. Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro con le dita, ti respiro e ti trattengo per averti per sempre, oltre il tempo di questo momento. Arrivo in fondo ai tuoi occhi,

behave. Steadily burn my own brain. I'm not feeling that it's all wrong. And it's all wrong. Without preparation, without a place to be, no sight for any occupation. Simply wanna be fancy free. I still feel, I still feel. I wanna be free when I'm thanking you for nothing. I wanna be free just again and again and again and again. Leo Harbrer, I wanna be free. Sì, anche noi. Veramente vogliamo essere liberi. Vogliamo essere liberi da cosa? Di fare tutto. Liberi di fare, fare tutto. Tutto. Sì. Libere. Anche libere di uccidere Geraldina? No. Andiamo avanti con il nostro, con il nostro segno, con il nostro oroscopo. Ah, con il nostro, con il tuo segno andiamo avanti. Con il mio segno, stavolta. Sì, sì, dai, voglio, e te lo leggo. Sono curiosa. Sì. Acquario, diciamo. Ecco. Non rimandate, se possibile, un chiarimento importante. Infatti oggi il sole, in aspetto dissonante nel segno dello Scorpione, tenterà di scombinare in qualche modo i vostri progetti. Voi però avete tutte le carte in regola per non rimanere sopraffatti. Ah, ho capito, ho capito. Ma staremo a vedere cosa succederà. E adesso andiamo, prossimo segno, il segno dei pesci. Una pericolosa forma di insofferenza emotiva si fa strada dentro di voi. La fatica si accumula e testa i nervosismi. Lo stress si rifletterà nella relazione con il partner, che in questi giorni rischia di mostrarsi abbastanza stizzoso e permaloso nei vostri confronti. Lo dico io che con la permalosità non si va avanti. No, no, no, no. Non è possibile. Non è possibile. Allora, anche per oggi abbiamo concluso con il nostro oroscopo. Naturalmente lo riascolteremo mercoledì. Sì, visto che è piaciuto, lo riproporremo sempre. Esatto, esatto, esatto. E adesso cosa facciamo? E adesso noi continuiamo sempre con le richieste, con le dediche, con le canzoni che ci richiedono o che noi mettiamo per coloro i quali si fanno sentire, ci chiamano. Sì. Poco fa è arrivata una telefonata, sì, mentre noi eravamo in diretta, è arrivata la telefonata di una signora. Una signora che mi appartiene. Sì. Sai chi era? Chi era? Mia suocera. Oh là là, la suocera! Sì. Ciao suocera, come si chiama la suocera? Rosaria. Rosaria, ciao Rosaria. Ciao. Io non so se darle buongiorno o buonasera, ciao. Le do un po' di tu, un po' di lei, quindi ciao suocera. Andiamoci così. Va bene, dai. Anzi, buonasera suocera. Hai chiamato perché mi ha un po' rimproverata, perché dice che non mi faccio sentire più. Aia. Ogni tanto io mi perdo, quindi le chiedo scusa, sì, innanzitutto, qui in diretta, vedi? Non si dovrebbero fare queste cose, però colgo l'occasione. Beh, facciamo uno strappo. Sì, io per oggi uno strappo all'area, ogni tanto ci vuole. Quindi chiedo umilmente scusa e le dico che anch'io le voglio bene, perché mi ha detto che mi vuole bene. Io le voglio tanto bene. Per essere una suocera, sai, la cosa dice la regola, la prassi, che solitamente le suocere... Io fino adesso non mi posso lamentare. Meglio. Spero che continui sempre così, che possa essere sempre così affettuosa con me, e io lo sarò altrettanto con certamente lei. Quindi a tal proposito non sapevo cosa mettere, cosa dedicarle, quindi non faccio una dedica di canzone, ho fatto questa dedica di quattro paroline. E poi so che penso che le possa piacere questa canzone che adesso le metterò. Sì. Loretta Goggi. Bella. Senti? Bella, bella, questa piace Loretta tanto Goggi, anche a me. Maledetta primavera, per mia suocera. Stringersi poi. Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi. Che imbroglio era, maledetta primavera. Che resta di un sogno erotico sei. Al risveglio è diventato un poeta. Se a mani vuote di te. Non so più fare come se non fosse amore. Se per errore chiudo gli occhi e penso a te. Thank you. che non toccano un cuore. Stelle una sola ce n'è che mi può dare la misura di un amore. Se per errore chiudi gli occhi e pensi a me, Primavera, Loretta Goggi. Questa canzone dedicata a Rosaria. Ciao Rosaria, che salutiamo. Certo, comunque salutiamo. La saluto anch'io. Jerry la saluta. Bene, allora, e adesso noi ricordiamo sì, i nostri numeri, perché infatti Rosaria ci ha chiamato proprio al nostro numero, quindi fatelo anche voi, CRMini. Allo 0921 92 32 92. Potete mandarci anche i vostri messaggini al 335 56 37 251. Potete seguirci in diretta streaming sul sito www.crmepiradio.it. E poi su Facebook, naturalmente, sul nostro portale Facebook, quindi. Bene, potete farlo. Avete quindi tutti i modi possibili e immaginabili per poterci contattare e fare le vostre richieste. Esattamente. Adesso ci lasciamo per qualche minuto di pubblicità, ma ritorniamo sempre qui in diretta. Non tra andate poco. Via! Programma che bussa alle vostre porte per tenervi compagnia. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful love you. See channel right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came. Beautiful day, bella, oggi è un bel beautiful day, devo sì, dire. Sì, è una bellissima giornata, è stata una bellissima giornata, sì, con un po' di sole, giusto adesso. Anche la temperatura, serata, devo dire, non è stata, sì, niente, infatti, male. Come puoi vedere, sono ancora a maniche corte, sì, che bello. A pensare che fra qualche giorno però posso salutare. Per poco tempo, e vabbè, sì, dai, pazienza, è così, eh. Mentre ascoltavamo Beautiful Day dei U2, ha chiamato il nostro radioascoltatore, un altro dei nostri affezionatissimo radioascoltatori, Rambo. Ciao Rambo. Lo salutiamo logicamente. Ciao Rambo. Ma ci diceva che la scorsa settimana faceva il compleanno. Sì. Ce l'aveva detto la scorsa settimana che l'avrebbe fatto il venerdì scorso. Se non erro, sì. Ecco, Rambo, ti facciamo gli auguri. Anche Rambo. In ritardo, vabbè. Di quattro giorni. Ma bene, apprezza uguale. Apprezza il pensiero. Hai visto, in occasione del tuo compleanno, quindi trascorso, spero bene. Ti dedichiamo Giovanotti. Sì. Con un raggio di sole. Che lingua parli tu? Se dico vita, dimmi cosa intendi. E come vivi tu? Se dico forza, attacchi o ti difendi. T'ho detto amore e tu m'hai messo in gabbia. M'hai scritto sempre male, scritto sulla sabbia. T'ho detto eccomi e volevi cambiarmi. T'ho detto basta e m'hai detto non lasciarmi. Abbiamo fatto l'amore e mi hai detto ah mi dispiace. Mi hai lanciato una scarpa col tacco e poi abbiamo fatto pace. Abbiamo rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco. E dopo un po' mi hai lanciato la solita scarpa col tacco, gridandomi di andare e di non tornare più. Io ho fatto finta di uscire, tu hai acceso la TV. E mentre un comico faceva ridere, io ti ho sentito che piangevi. E allora son tornato, ma tanto già lo sapevi che tornavo da te, senza niente da dire, senza tante parole, ma con in mano un raggio di sole. Per te che sei lunatica, niente teorie con te, soltanto pratica, praticamente amore. Oh, oh, oh, ti porto in dono un raggio di sole per te, un raggio di sole per te. Che cosa pensi tu? Se dico amore, dimmi cosa intendi. Siamo andati al mare e mi parlavi di montagne. Abbiamo preso una casa in città e sogni la campagna. Con gli uccellini, le anatre e le oche, i delfini, i conigli, le api, papaveri e le foche.

Toc Toc, un programma di Rosy e Jerry. Con dedicato a te e a tutti i nostri amici radioascoltatori. Eccoci qua. E allora, vi ricordiamo che tra un pochino ci sarà il nostro appuntamento con il Cinema Time. Oggi abbiamo scelto il diario di Bridget Jones e Qualunque Mente. Quindi con due bellissime colonne sonore che poi sveleremo che poi dopo. Dopo, sì, infatti. E poi volevo ricordare un'altra cosa, che anche a Cefalù si è aperta una scuola di canto moderno e canto lirico. Per informazioni potete rivolgervi al numero 328-06-50625. Bene. Però per il momento, in attesa del Cinema Time, sì, continuiamo noi con le richieste che ci giungono qui su tramite Facebook, perché ricordiamo che potete contattarci su Facebook a richiederci questa canzone. È Rosa, la nostra amica Rosa, che richiede Giorgia, tra dire e fare, tra terra e mare, tra tutto quello che avrei da dire, sto qua a parlare d'amore. Tra dire e fare, tra bene e male, con tutto quello che avrei da fare, sto qua che penso solo a te. E tu lasciami fare, basta restare un po' di tempo. voglio fare l'amore. A me basta guardarti un po', guardare i tuoi movimenti così lenti che mi fai sentire che tu fammi sentire che durerà tra te e me. Il tempo si fermerà tra te e me. Tradire e fare tra miele e sale, resto a sentire i tuoi pensieri per me. Che fanno rumore e tu lasciami fare. A me basta restare un po' di tempo a parlare insieme a te, solo a parlare. Non voglio fare l'amore, a me basta guardarti un po', guardare i tuoi movimenti così lenti. Giorgia, tradire e fare, questa era la richiesta da parte di Rosa, che noi salutiamo. Ciao, ciao Rosa. Ciao ciao Rosa. E allora è arrivato il momento del nostro Cinema Time. E allora vi dicevo poco fa che abbiamo scelto Qualunque Mente e con come colonna sonora Shakira con Whenever Wherever, e poi andremo ad ascoltare la colonna sonora del film Il diario di Bridget Jones di Jerry Halliwell, It's Raining Men. Cominciamo subito quindi ad ascoltare Shakira con Whenever Wherever. Cinema Time. Shakira con Whenever, Wherever, questa è la colonna sonora del film Qualunque Mente. È un film del 2011 di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Lorenza Indovina e Sergio Rubini e tanti tanti altri ancora. Dopo una lunga latitanza all'estero, lo sgrammaticato imprenditore Cettola Qualunque torna in Italia con la sua nuova famiglia, una ragazza brasiliana ed una bambina. Ritrovata la moglie Carmen ed il figlio Melo, Cetto dovrà difendere le sue proprietà minacciate da un'ondata di legalità e dalla possibilità che il suo avversario Giovanni De Santis possa vincere le elezioni. Spinto dai compaesani del circolo della caccia, Cetto deciderà quindi di entrare in politica e a candidarsi come sindaco per salvare, tra virgolette, salvare la città, oppure chissà, per difendere i propri interessi. Ma tu sei andata a vederlo Qualunque Mente? Sinceramente no. No, neanch'io. Però dicono che è stato molto molto divertente come film. Dobbiamo andarci allora, mi sa, eh? Ormai lo possiamo vedere in DVD. Vabbè, quello intendevo. Grazie. Andiamo a sentire allora la prossima. Andiamo avanti, che colonna sonora del film Il diario di Bridget Jones, Jerry Halliwell con It's Raining Men. Cinema Time. Stay in bed. Halliwell con It's a Raining Man. Questa è la colonna sonora del film Il diario di Bridget Jones. È un film del 2001 di Sharon McGeer. Interpreti, protagonisti, attori: Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant. Il diario di Bridget Jones è l'adattamento cinematografico dell'omonimo bestseller che l'autrice Ellen Fielding affida all'amica Sharon McGeer, sulla quale modella anche il personaggio di Schatzer, un'amica e una confidente femminista di Bridget. Il film narra le vicende di una trentenne londinese che affida alle pagine di un diario le proprie disavventure di single coatta, nevrotica e frustrata, dilaniata dal rapporto compulsivo con sigarette, alcol e cibo. Impossibile non riconoscersi in Bridget, ritratto dolce e amaro dell'attuale generazione di trentenni instabili e insoddisfatte. Divertente, per certi versi superficiale ed eccessivamente incline alla banalizzazione, ma forse la forza del film, come del romanzo, è racchiusa proprio in questo sorriso leggero e disimpegnato su una delle tante ragazze over 20. Bello, questo film è divertente. Sì, anche simpatico, questo l'ho visto anch'io. Molto carino, devo dire, bello, bello. Anche per oggi abbiamo finito con il nostro Cinema Time. E adesso passiamo ad accontentare una richiesta. Nuccio, che voleva dedicare questa bellissima canzone di Elisa a Maria, alla moglie e alla figlia, Giorgia. Elisa, una poesia anche per te. Sia felice, piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli san portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose e ci sarà sentissi più dolore, ma tu hai tessuto sogni di cristallo troppo coraggiosi e fragili per morire adesso solo per un rimpianto. Ci sarà sole, come sa fare con la neve, ci sarà. Yeah. Elisa, una poesia anche per te. Questa era da parte di Nuccio, per la moglie Maria e per la piccolina Giorgia, che noi salutiamo. Ciao Maria, ciao Giorgia, naturalmente. Ciao a tutti. Ciao Nuccio. Bene, bene. Bella questa canzone di Elisa. Sì, sì, bella. Tutte belle le sue canzoni. Allora, vi ricordo ancora una volta che anche a Cefalù si è aperta una scuola di canto moderno e lirico. Per informazioni potete rivolgervi al 328 0650 625. Mi raccomando. Mi raccomando, scrivetevi. E adesso? La senti? Sigla, la sigla finale. Siamo arrivati alla fine del nostro programma. Vabbè, e dai, vi possiamo dare tranquillamente l'appuntamento a mercoledì, a sempre, dopodomani. Sì, dalle 17 alle 19 circa. L'orario bene è sempre bene quello. Bene o male sì. Sì, bene o male, le 17 e qualche minuto, non state lì a guardare l'orologio, il tic-tac, il toc-toc. Esatto. Il toc-toc lasciatelo solo per il nostro programma. Giusto. Quindi, allora, ci salutiamo? Un grande besos. Bacio, grande, buona bisù, serata. Bisù, kiss. State attenti che piove. Altro che bella giornata che poco fa dicevamo. Diciamo che è partita bene. In poi 5 minuti si è trasformata. Noi non ce ne eravamo accorte per niente. Esatto, però abbiamo notato, un nostro radioascoltatore ci ha fatto notare, esatto, veramente al telefono. E poi abbiamo notato che sta diluviando. E va bene, dai. Ci Remini, a mercoledì, non mancate. Ciao, buona serata. Ciao. Avete ascoltato Toc Toc con